Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. In quale ordine di successione siano presentate queste carte risulterà evidente a chi le leggerà. Tutti i fatti superflui sono stati eliminati in maniera che una storia apparentemente inverosimile e quasi incompatibile con le credenze di oggi possa reggere come una semplice realtà. Non sono riportati avvenimenti riferiti al passato in cui la memoria potrebbe fallare. Infatti tutti i documenti scelti sono assolutamente contemporanei e presentati dal punto di vista di coloro che li hanno scritti e nell'ambito delle loro conoscenze. Capitolo primo. Diario di Jonathan Harker. Stenografato. 3 maggio, Bistritz. Partito da Monaco alle 8:35 la sera del primo maggio e arrivato a Vienna il giorno dopo al mattino presto. Saremmo dovuti arrivare alle 6:46, ma il treno aveva un'ora di ritardo. Da quel poco che sono riuscito a vedere dal treno e nella breve passeggiata per le strade, Budapest mi sembra assai bella. Non volevo allontanarmi troppo dalla stazione perché, essendo arrivati in ritardo, saremmo ripartiti il più possibile in orario. Ho avuto l'impressione di lasciare l'Occidente per entrare nell'Oriente. Anche il più occidentale degli stupendi ponti sul Danubio, che qui è imponente, ampio e profondo, ci ricordava le tradizioni della dominazione turca. Partiti quasi in perfetto orario, siamo giunti a Klausenburg dopo l'imbrunire. Ho trascorso la notte all'Hotel Royal, dove per pranzo, o meglio per cena, mi è stato presentato del pollo cucinato con pepe rosso. Era molto buono, ma mi ha provocato una gran sete. Ricordarsi farsi dare la ricetta per Mina. Ho interrogato il cameriere, il quale mi ha detto che si chiamava Paprika Händel e che trattandosi di un piatto nazionale l'avrei trovato dappertutto nei Carpazi. La mia infarinatura di tedesco si è rivelata molto utile qui, altrimenti non so davvero come me la sarei cavata. A Londra, avendo un po' di tempo a disposizione, ero andato al British Museum per consultare, nella biblioteca, libri e mappe della Transilvania. Mi era venuta l'idea che una qualche conoscenza anticipata del paese mi avrebbe probabilmente aiutato, poiché dovevo trattare con un nobile del luogo. Avevo così scoperto che il distretto da lui menzionato si trovava sul limite orientale del paese, proprio al confine di 3 stati, la Transilvania, la Moldavia e la Bucovina, nel centro del sistema montuoso dei Carpazi, una delle regioni più selvagge e meno conosciute dell'Europa. Non sono riuscito a trovare, né su una carta né su un libro, l'esatta ubicazione del castello Dracula, perché di questo paese non esistono carte paragonabili a quelle del nostro servizio di rilievi topografici. Ma ho constatato che Bistritz, il capoluogo di provincia nominato dal conte Dracula, è una cittadina piuttosto nota. Trascrivo qui alcuni dei miei appunti che serviranno per rinfrescarmi la memoria quando racconterò il mio viaggio a Mina. A Bistritz, che è un'antica città molto interessante, siamo arrivati dopo il crepuscolo. Situata in pratica sul confine, il passo Borgo, infatti, porta in Bucovina, ha avuto un passato turbolento di cui conserva indubbiamente le tracce. 50 anni fa ci fu una serie di grandi incendi che provocarono per 5 volte consecutive terribili devastazioni. All'inizio del XVII secolo la città subì un assedio di 3 settimane, in cui perirono 13.000 persone, essendosi aggiunte alla guerra, alla fame e le epidemie. Il conte Dracula mi aveva consigliato l'albergo Corona d'Oro, un albergo in tutto e per tutto di vecchio stile. Questo mi fece grande piacere, perché naturalmente desidero conoscere il più possibile le usanze del paese. Ero evidentemente aspettato, perché avvicinandomi alla porta sono stato accolto da un'anziana donna dall'aria cordiale che indossava il solito costume delle contadine, camicetta bianca con lungo grembiule doppio davanti e dietro, di stoffa colorata quasi troppo aderente per essere modesto. Quando mi sono fatto più vicino, la donna si è inchinata e mi ha chiesto: «Voi, Herr Inglese?» «Sì», le ho risposto, «sono Jonathan Harker». La donna ha sorriso, poi ha detto qualcosa a un vecchio in maniche di camicia che l'aveva seguita sulla soglia. Il vecchio si è allontanato per ritornare subito dopo con una lettera. «Caro amico, benvenuto nei Carpazi. Vi aspetto con ansia, dormite bene questa notte. La diligenza per la Bucovina parte domani alle 3 e per voi è stato prenotato un posto. La mia carrozza vi aspetterà al passo Borgo e vi condurrà da me. Spero che il vostro viaggio da Londra sia stato buono e che il soggiorno nel mio bel paese vi riesca gradito. Il vostro amico, Dracula». 4 maggio. Ho scoperto che il mio albergatore aveva ricevuto una lettera dal conte, che lo incaricava di fissare per me il posto migliore della diligenza, ma quando ho cercato di sapere qualche altro particolare, mi è parso in qualche modo reticente e ha finto di non capire il mio tedesco. Questo poteva non essere vero, perché fino a quel momento l'aveva capito perfettamente, o almeno aveva risposto alle mie domande come se capisse. L'uomo e la moglie, l'anziana donna che mi aveva ricevuto, si scambiavano occhiate come di spavento. L'uomo ha borbottato che il denaro era stato spedito per lettera e che lui non sapeva altro. Quando gli ho chiesto se conosceva il conte Dracula e se poteva dirmi qualcosa del suo castello, lui e la moglie si sono fatti il segno della croce e, dichiarando di non sapere niente del tutto, hanno semplicemente rifiutato di aggiungere altro. Il momento della partenza era così vicino che non ho avuto il tempo di interrogare nessuno. Ma tutto è molto misterioso e niente affatto rassicurante. Poco prima che lasciassi l'albergo, l'anziana donna è salita in camera mia per dirmi, in tono molto agitato: «Dovete andare? Oh, giovane Herr, dovete proprio andare?» Era così eccitata che sembrava avere dimenticato quel po' di tedesco che sapeva e lo mescolava con parole di un'altra lingua che io non conoscevo affatto. Sono riuscito a seguire il sanatorio aggiungendo molte domande. Quando le ho detto che dovevo partire subito per occuparmi di importanti affari, ha insistito: «Ma voi sapete che giorno è questo?» Le ho risposto che era il 4 maggio. La donna, scrollando il capo, ha replicato: «Oh sì, questo lo so, ma voi sapete che giorno è questo?» Sentendosi rispondere che non la capivo, ha continuato: «È la vigilia del giorno di San Giorgio. Voi non sapete che oggi, quando batte la mezzanotte, tutte le forze malefiche del mondo hanno pieno potere? Sapete voi dove andate e verso cosa? Lo sapete?» Sembrava in un tale stato di angoscia che ho tentato di confortarla, ma senza riuscirvi. Infine si è inginocchiata per implorarmi di non partire, o almeno di rimandare la partenza di un giorno o due. Era una situazione assurda, ridicola, ma io non mi sentivo affatto a mio agio. In ogni modo avevo un preciso impegno e non potevo ammettere interferenza alcuna. Ho cercato quindi di sollevarla e le ho detto con tutta la serietà possibile che la ringraziavo, ma non potevo rimandare il mio importante lavoro e dovevo partire. Allora essa si è alzata e, dopo essersi asciugata gli occhi, si è tolta un piccolo crocifisso che portava al collo e me lo ha offerto. Io non sapevo che cosa fare perché, come anglicano, avevo imparato a considerare simili oggetti come, in un certo senso, idolatrici. Tuttavia mi sembrava molto scortese rifiutare il dono di questa anziana donna animata dalle migliori intenzioni e in un tale stato di angoscia. Essa ha notato, immagino, l'incertezza sul mio viso, perché mi ha messo il rosario intorno al collo dicendomi: «Per amore di vostra madre». Poi e uscita dalla stanza. Scrivo queste righe sul mio diario mentre aspetto la diligenza, che naturalmente è in ritardo. Il crocifisso è ancora appeso al mio collo. Non so se sia per la paura della vecchia albergatrice, ma il fatto è che non mi sento tranquillo come al solito. Se questo diario dovesse pervenire a Mina prima di me, le porti il mio addio. Ecco, arriva la diligenza. Maggio. Il castello. Il rigore delle minuti passata e il sole è alto sul remoto orizzonte, che sembra frastagliato, non capisco se da alberi o monti, perché è così lontano che le cose grandi si confondono con le piccole. Non ho sonno. E sapendo che non sarò chiamato prima di svegliarmi da solo, scriverò finché non avrò voglia di dormire. Ho tante cose strane da annotare, e nel timore che un eventuale lettore possa supporre che io abbia pranzato troppo abbondantemente prima di lasciare Bistritz, ecco la descrizione esatta del mio pasto. Ho mangiato quella che qui chiamano bistecca del ladro, pezzetti di pancetta, di cipolla e di manzo conditi con pepe rosso, infilzati su spiedini e arrostiti sul fuoco proprio come si usa fare a Londra. Il vino era un mediash dorato che produce uno strano pizzicorino sulla lingua, ma è tutt'altro che sgradevole. Ne ho bevuti soltanto due bicchieri e questo è tutto. Quando sono salito sulla diligenza, il cortiere non era ancora al suo posto e l'ho visto conversare con l'albergatrice. Evidentemente parlavano di me perché ogni tanto mi lanciavano un'occhiata e alcune delle persone sedute sulla panca fuori dall'uscio, qui chiamata con una parola che significa porta parola, si sono avvicinate ad ascoltare. Poi mi hanno guardato, generalmente con un'espressione compassionevole. Sentivo ripetere molte parole, parole strane, perché il gruppetto si componeva di gente di varie nazionalità. Allora presi dalla borsa da viaggio il dizionario poliglotta e senza dire niente le ho cercate. Devo ammettere che non mi sono piaciute affatto, perché tra esse figuravano Ordog, Satana, Pokol, Inferno, Stregoica, Strega, Vrolok e Vlkoslach, che una in slovacco e l'altra in serbo indicano la stessa cosa. Lupo mannaro. O vampiro. Ricordarsi di parlare con il conte di queste superstizioni. Al momento della partenza, quelli del gruppo riunito davanti alla porta della locanda, che era diventato quasi una piccola folla, si sono fatti tutti il segno della croce e hanno puntato due dita verso di me. Con una certa difficoltà sono riuscito a indurre un passeggero a spiegarmi il significato di questi gesti. Da principio non voleva rispondermi, ma infine, apprendendo che ero inglese, mi ha detto che si trattava di un incantesimo o uno scongiuro contro il malocchio. Tutto questo non era troppo piacevole per me, che andavo verso un luogo sconosciuto a incontrare un ignoto. Ma tutti sembravano gente di buon cuore, tanto dispiaciuti e compassionevoli che non potevo non sentirmene commosso. Non dimenticherò mai l'ultima visione che ebbi del cortile della locanda con il suo gruppo di pittoresche figure che si segnavano, radunate intorno al grande portale, e sullo sfondo il ricco fogliame degli oleandri e degli aranci sistemati nel centro in grossi vasi verdi. Infine il cocchiere, le cui ampie brache di tela coprivano l'intero posto a cassetta, ha fatto schioccare la frusta sui suoi quattro cavallini attaccati uno a fianco dell'altro e siamo partiti. A un certo punto, Curioso di sapere che ora fosse, ho acceso un fiammifero e alla luce della fiammella ho guardato il mio orologio. Mancavano pochi minuti a mezzanotte. Ne sono rimasto piuttosto colpito perché la comune superstizione riguardante la mezzanotte era stata rafforzata, suppongo, dalle mie esperienze recenti. Ho aspettato, con uno sgradevole senso di ansia. Poi un cane si è messo a ululare da qualche parte, in una fattoria distante dalla strada. Un lamento prolungato, angoscioso, come di paura. Al richiamo ha risposto un cane, poi un altro, e un altro ancora, finché, portato dal vento che spirava leggero sul passo, è cominciato un selvaggio coro di latrati che sembrava venire da ogni parte della regione, quale almeno la immaginava la mia fantasia, nelle tenebre della notte. Al primo ululato i cavalli si sono impennati e hanno cominciato a retrocedere, ma il guidatore li ha rassicurati con la voce. I cavalli si sono salvati, e tuttavia rabbrividivano e sudavano come dopo una fuga provocata da uno spavento improvviso. Allora, a grande distanza, dalle montagne circostanti si è elevato un ululo più forte e più aspro, quello dei lupi, che ha colpito nello stesso modo i cavalli e me. Io infatti avrei voluto balzare giù dal calesse e fuggire mentre i cavalli riprendevano e impennarsi a scalpitare pazzamente, tanto che il guidatore ha dovuto usare tutta la sua grande forza per trattenerli. In pochi momenti però le mie orecchie si sono abituate al rumore e anche i cavalli si sono calmati. Così il guidatore è potuto scendere e si è messo in piedi davanti a loro. Ha cominciato ad accarezzarli, a placarli, e intanto bisbigliava loro qualcosa negli orecchi, come ho sentito dire che fanno i domatori di cavalli. L'effetto è stato straordinario. Sotto le sue carezze, gli animali si sono fatti di nuovo docili, pur seguitando a tremare. Il guidatore è risalito a cassetta, ha scosso le redini e siamo ripartiti a gran velocità. Questa volta, dopo essersi spinto fino in fondo al passo, ha svoltato improvvisamente a destra per prendere una stretta carreggiata. Presto ci siamo trovati in mezzo agli alberi che in certi punti formavano un'arcata sulla strada, tanto che passavamo attraverso una galleria, oppure massicce arcigne rocce incombevano minacciose su di noi da entrambi i lati. Pur essendo al riparo potevamo sentire il vento alzarsi, genere e fischiare tra le lupi e i rami degli alberi urtare uno contro l'altro mentre passavamo di carriera. Il freddo si faceva sempre più intenso. Poi è cominciata la neve, sottile, polverosa. Ben presto ha ricoperto di una coltre bianca noi e tutti i luoghi circostanti. Il vento pungente portava ancora l'ululato dei cani, che tuttavia diveniva più flebile a mano che procedevamo. Ma l'urlo dei lupi si faceva sempre più vicino, come se ci stessero circondando da ogni parte. Io ero terribilmente spaventato, e i cavalli condividevano il mio terrore, ma il guidatore era assolutamente tranquillo. Seguitava a girare la testa a destra e a sinistra, ma io non riuscivo a vedere niente nell'oscurità. Improvvisamente ho intravisto in lontananza, alla nostra sinistra, una fiammella azzurrognola tremolare debolmente. Anche il guidatore l'ha vista, ha fermato subito i cavalli, è balzato a terra ed è scomparso nel buio. Io non sapevo che cosa fare, tanto più che l'ululato dei lupi si stava avvicinando. Ma mentre me lo domandavo, l'uomo ad un tratto è ricomparso ed è risalito al suo posto senza dire una parola. Così abbiamo ripreso il viaggio. Presumo di essermi addormentato e di avere continuato a sognare l'incidente, perché sembrava ripetersi in continuazione, e ora, ripensandoci, mi pare una specie di orribile incubo. Una volta la fiamma è apparsa così vicina alla strada che anche nell'oscurità ho potuto osservare i gesti del guidatore. È andato rapidamente nel punto in cui sorgeva la fiammella azzurrognola, che doveva essere molto fioca davvero perché non illuminava affatto l'area circostante. e raccolti alcuni sassi li ha disposti secondo un certo suo disegno. E si è verificato anche uno strano effetto ottico una volta. Stando tra me e la fiamma, l'uomo non la nascondeva perché io seguitavo a vederne lo spettrale tremulo barlume. Sono rimasto sbalordito. Ma trattandosi di un fatto momentaneo, penso che i miei occhi, a furia di sforzarsi nell'oscurità, mi abbiano ingannato. Poi, per un po' di tempo, non ci sono più state fiammelle azzurre e abbiamo seguitato a procedere nel buio, accompagnati dall'ululare dei lupi che parevano seguirci in un cerchio mobile. Infine c'è stato un momento in cui il guidatore si è allontanato più di quanto avesse mai fatto e durante la sua assenza i cavalli si sono messi a tremare più che mai, a sbuffare e a nitrire di spavento. Io non ne vedevo la causa perché i lupi avevano cessato completamente di ululare. Ma proprio in quell'istante la luna, che veleggiava tra le nubi scure, è apparsa dietro la cresta frastagliata di una rupe sovrastante coperta di pini. E alla sua luce ho visto intorno a noi un cerchio di lupi. I denti bianchi, le lingue rosse penzoloni, le lunghe membra ossute, il pelo ispido. Nel cupo silenzio in cui erano immersi apparivano 100 volte più spaventosi di quando ululavano. Quanto a me sono stato quasi paralizzato dal terrore. Soltanto quando un uomo si trova faccia a faccia con simili orrori ne capisce la vera portata. D'un tratto i lupi hanno ripreso a ululare, come se la luna avesse uno speciale effetto su di loro. I cavalli si sono messi a saltare, a indietreggiare, a guardarsi intorno disperati, roteando gli occhi in modo pietoso a vedersi. Ma il cerchio vivente di terrore li circondava da ogni parte, ed essi erano costretti a rimanervi dentro. Ho chiamato il guidatore per farlo ritornare. Mi sembrava che la nostra unica possibilità fosse di cercare di spezzare il cerchio e consentirgli così di riavvicinarsi. Gridavo, battevo il fianco del calesse sperando di spaventare i lupi da quella parte e di dargli modo di raggiungere il veicolo. Come sia giunto, non lo so, ma ho udito la sua voce alzarsi in un tono di comando imperioso. E volgendo lo sguardo verso quel suono l'ho visto in piedi sulla carreggiata. Agitava le lunghe braccia come per rimuovere qualche invisibile ostacolo ed ecco i lupi indietreggiare. Indietreggiare sempre di più. Poi una grossa nuvola è passata davanti alla fascia della luna e siamo ripiombati nell'oscurità. Quando sono riuscito a vedere di nuovo, il guidatore stava risalendo sul calesse e i lupi erano scomparsi. Tutto questo era così bizzarro e soprannaturale che sono stato preso da una tremenda paura e non osavo né parlare né muovermi. Il tempo sembrava interminabile mentre procedevamo ormai nella più completa oscurità, perché la luna era nascosta da nuvole in movimento. Seguitavamo a salire e anche se di tanto in tanto c'era una ripida discesa, nel complesso andavamo sempre più in alto. Ed un tratto mi sono reso conto che l'uomo stava fermando i cavalli nel cortile di un grande castello in rovina, dalle cui alte, scure finestre non trapelava un raggio di luce e i cui merli crollanti si profilavano frastagliati contro il cielo illuminato dalla luna.